Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Ursula dovette fare un grande sforzo per mantenere la sua promessa di morire quando fosse spiovuto. I lampi di lucidità, che erano così scarsi durante la pioggia, si fecero più frequenti a partire da agosto, quando cominciò a soffiare il vento arido che soffocava i rosai e pietrificava i pantani, e che finì per spargere su Macondo la polvere incandescente che coprì per sempre gli arrugginiti tetti di zinco e i mandorli centenari. Ursula pianse di dispiacere quando scoprì che per più di 3 anni era servita da giocattolo ai bambini. Si lavò la faccia impiastricciata, si levò di dosso i nastri di carta colorata, le lucertoline, i rospi rinsecchiti e le collane di semi e gli antichi collari arabi che le avevano appeso su tutto il corpo, e per la prima volta dalla morte di Amaranta si alzò dal letto senza l'aiuto di nessuno per reintegrarsi alla vita della famiglia. Lo spirito del suo cuore invincibile la orientava nelle tenebre. Chi la urtò nei suoi vacillamenti e si scontrò col suo braccio arcangelico sempre alzato all'altezza della testa, poteva pensare che il suo corpo ce la faceva a malapena, ma ancora non riuscì a credere che fosse cieca. Ursula non aveva bisogno di vedere per rendersi conto che le aiuole di fiori coltivate con tanta cura fin dalla prima ricostruzione erano state distrutte dalla pioggia e sconvolte dagli scavi di Aureliano II, e che le pareti e il cemento dei pavimenti erano screpolati, i mobili sconnessi e scoloriti, le porte sgangherate e la famiglia minacciata da uno spirito di rassegnazione e di tristezza che non sarebbe stato concepibile ai suoi tempi. Muovendosi a tentoni per le stanze vuote, percepiva il picchiettio continuo del tarlo che rosicchiava i legni e il ticchettio delle tarme negli armadi e lo strepito devastatore delle enormi formiche rosse che avevano prosperato durante il diluvio e stavano perforando le fondamenta della casa. Un giorno aprì il baule dei santi e dovette chiedere aiuto a Santa Sofia della Pietà per liberarsi dagli scarafaggi che erano sbucati dall'interno e che ormai avevano polverizzato la roba. «Non è possibile vivere in questo abbandono», diceva. «Di questo passo finiremo divorati dalle bestie». Da allora non ebbe un istante di requie. Si alzava prima ancora dello spuntare del giorno e si faceva aiutare da chi era disponibile, compresi i bambini. Sciorinò al sole le poche robe che erano ancora in condizione di essere usate, sconfisse gli scarafaggi con assalti di sorpresa a base di insetticida, raspò le vene del tarlo nelle porte e nelle finestre e asfissiò con calce viva le formiche nelle loro tane. La febbre del restauro finì per condurla nelle stanze dimenticate. Fece ripulire dai rifiuti e dalle ragnatele la stanza dove José Arcadio Buendía si era seccato il comprendonio cercando la pietra filosofale. Mise in ordine il laboratorio di oreficeria che era stato messo sossopra dai soldati e per ultimo chiese le chiavi della stanza di Melchiades per vedere in che stato si trovava. Fedele alla volontà di José Arcadio II, che aveva vietato qualsiasi intromissione fin tanto che non ci fosse stato un indizio reale della sua morte, Santa Sofia della Pietà fece ricorso a ogni sorta di sotterfugi per sviare Ursula. Ma era così inflessibile la sua decisione di non abbandonare agli insetti nemmeno il più recondito e inservibile angolo della casa, che superò quanti ostacoli le si presentarono e dopo 3 giorni di insistenze riuscì a farsi aprire la stanza. Dovette afferrarsi allo stipite per non essere travolta dall'odore pestilenziale. Ma le bastarono soltanto 2 secondi per ricordarsi che in quel luogo erano conservati i 72 pitali delle collegiali e che in una delle prime notti della pioggia una pattuglia di soldati aveva perquisito la casa cercando José Arcadio II e non era riuscita a trovarlo. Sia benedetto Dio, esclamò come se avesse visto tutto. Tanta fatica per inculcarti le buone abitudini perché tu finissi a vivere come un porco. José Arcadio II continuava a leggere le pergamene. L'unica cosa visibile nell'intricata selva di peli erano i denti, venati di verdume, e gli occhi immobili. Quando riconobbe la voce della bisnonna, girò la testa verso la porta. Cercò di sorridere e senza saperlo ripeté un'antica frase di Ursula. «Cosa vuole?» mormorò. «Il tempo passa». «Così è», disse Ursula, «ma non tanto». Dicendolo, si rese conto che stava dando la stessa risposta avuta dal colonnello Aureliano Buendia nella sua cella di condannato. E ancora una volta rabbrividì, constatando che il tempo non passava, come lei aveva appena finito di ammettere, ma che continuava a girare in giro. Ma nemmeno allora cedette alla rassegnazione. Rimproverò José Arcadio II come se fosse un bambino e si ostinò perché facesse il bagno e si radesse e le prestasse la sua forza per finire di restaurare la casa. La sola idea di lasciare la stanza che gli aveva procurato la pace terrorizzò José Arcadio II. Gridò che non c'era potere umano capace di farlo uscire, perché non voleva vedere il treno di 200 vagoni carichi di morti che ogni sera partiva da Macondo verso il mare. «Sono tutti quelli che erano nella stazione», gridava, «3.408». Soltanto allora Ursula capì che José Arcadio II era in un mondo di tenebre più impenetrabile del suo, tanto insormontabile e solitario quanto quello del bisnonno. Lo lasciò nella stanza, ma ottenne che non rimettessero il lucchetto, che facessero ogni giorno le pulizie, che buttassero i pitali nella spazzatura e ne lasciassero soltanto uno, e che mantenessero José Arcadio II pulito e presentabile, come lo era stato il bisnonno durante la sua lunga prigionia sotto il castagno. Sulle prime Fernanda interpretava tutto quell'affannarsi come un accesso di pazzia senile e a malapena reprimeva l'esasperazione. Ma José Arcadio le scrisse in quell'epoca da Roma che pensava di recarsi a Macondo prima dei voti perpetui. E la buona notizia le infuse tale entusiasmo che dalla sera alla mattina si trovò a innaffiare i fiori 4 volte al giorno, in modo che suo figlio non avesse a formarsi una cattiva impressione della casa. Fu questo stesso incentivo che la indusse ad accelerare la sua corrispondenza coi medici invisibili e a ricollocare nel portico i vasi di felci e di origano e i testi di begonie, molto prima che Ursula s'accorgesse che erano stati distrutti dalla furia sterminatrice di Aureliano II. Più tardi vendette il servizio d'argento e comprò vasellame di ceramica, zuppiere e cucchiaioni di peltro e posate di alpaca, e ne impoverì le credenze, use al vasellame della Compagnia delle Indie e alla cristalleria di Boemia. Ursula cercava di spingersi sempre più in là. «Che si aprano porte e finestre!» gridava. «Che si faccia carne e pesce! Che si comprino le tartarughe più grandi! Che vengano i forestieri a stendere le loro stuoie negli angoli e a urinare sui rosai! Che si siedano a tavola a mangiare quante volte vogliono! E che ruttino e bestemmino! E che infanghino tutto coi loro stivali!» E che facciano di noi quello che vogliono, perché questo è l'unico modo per scacciare la rovina. Ma era una vana illusione. Era ormai troppo vecchia e aveva vissuto d'avanzo per ripetere il miracolo degli animaletti di caramello e nessuno dei suoi discendenti aveva ereditato il suo vigore. La casa continuò a rimanere sbarrata per ordine di Fernanda. Aureliano II, che era tornato coi suoi bauli nella casa di Petra Cotes, disponeva appena dei mezzi perché la famiglia non morisse di fame. Con la riffa della mula, Petra Cotes e lui avevano comprato altri animali, coi quali riuscirono ad avviare una rudimentale impresa di riffe. Aureliano II andava di casa in casa offrendo i bigliettini che lui stesso dipingeva con inchiostri colorati per renderli più attraenti e convincenti. E forse non si rendeva conto che molti glieli compravano per gratitudine e la maggior parte per compassione. Tuttavia, anche i più pietosi compratori acquistavano l'opportunità di vincersi un maiale per 20 centavos o una vitellina per 32, e la speranza li entusiasmava a tal punto che la sera del martedì traboccavano nel patio di Petra Cotes, aspettando il momento in cui un bambino, scelto a caso, toglieva dalla borsa il numero premiato. La cosa non tardò a trasformarsi in una fiera settimanale. Infatti, fin dal crepuscolo si montavano nel patio banchi di frittelle, chioschi di bibite, e molto spesso i favoriti dalla sorte sacrificavano sul posto l'animale vinto alla condizione che gli altri offrissero la musica e l'acquavite, di modo che, senza averlo voluto, Aureliano II si trovò improvvisamente a suonare di nuovo la fisarmonica e a partecipare a modesti tornei di voracità. Queste umili repliche delle baldorie di altri tempi servirono a far sì che lo stesso Aureliano II scoprisse quanto era decaduto il suo spirito e fino a che punto si era inaridito il suo ingegno di sgavazzatore magistrale. Era un uomo cambiato. I 120 chili che aveva raggiunto nell'epoca in cui l'elefantessa lo aveva sfidato si erano ridotti a 78, e la lucida e gonfia faccia di tartaruga gli si era fatta di iguana ed era sempre prossimo alla noia e alla stanchezza. Per Petra Cotes, tuttavia, non fu mai uomo migliore di allora, forse perché scambiava per amore la compassione che lui le ispirava e il sentimento di solidarietà che in entrambi aveva risvegliato la miseria. Il letto, smantellato, smise di essere un luogo di sfrenatezza e si convertì in rifugio di confidenze. Liberati dagli specchi ripetitori svenduti per comperare animali per la riffa e dai lussuriosi damaschi e velluti che si era mangiata la mula, rimanevano svegli fino a notte inoltrata con l'innocenza di due avi insonni, impiegando a far conti e destinare centesimi il tempo che prima dissipavano dissipandosi. Certe volte i primi galli li sorprendevano intenti a fare e disfare mucchietti di monete, levando un poco di qui per metterlo là, di modo che questo bastasse per accontentare Fernanda e quello per le scarpe di Amaranta Ursula e quest'altro per Santa Sofia della Pietà, che non si comprava un vestito fin dai tempi del rumore, e questo per pagare la cassa se moriva Ursula, e questo per il caffè, che aumentava di un centavo la libra ogni 3 mesi, e questo per lo zucchero che addolciva sempre meno, e questo per la legna che era ancora umida per il diluvio, e quest'altro per la carta e l'inchiostro colorato per i biglietti, e quello che avanzava per ammortizzare a poco il costo della vitella di aprile, della quale per miracolo avevano salvato la pelle perché le era venuto il carbonchio sintomatico quando si erano già venduti quasi tutti i numeri della riffa. Erano così pure quelle esibizioni di povertà che destinavano sempre la parte migliore a Fernanda, e non lo fecero mai per rimorso o per carità, ma perché il suo benessere era per ambedue più importante del loro. Quello che succedeva in realtà, anche se nessuno dei due se ne rendeva conto, era che essi pensavano a Fernanda come alla figlia che avrebbero voluto avere e che non avevano avuto, fino al punto che una volta si rassegnarono a mangiare gran turco bollito per 3 giorni per permetterle di comprare una tovaglia d'Olanda. Tuttavia, per quanto si ammazzassero lavorando, per quanto denaro sottraessero e per quanti trucchi escogitassero, i loro angeli custodi si addormentavano per la stanchezza mentre i due aggiungevano e levavano monete cercando di farle bastare perfino per poter vivere. Nell'insonnia provocata dai conti che non tornavano mai, si chiedevano che cosa era successo nel mondo, perché gli animali non partorivano con la stessa frenesia di prima, perché il denaro svaniva nelle mani e perché la gente, che fino a poco tempo prima bruciava fasce di banconote nelle sgavazzate, riteneva che era una vera e propria grassazione pretendere 12 centavos per la riffa di 6 galline. Aureliano II pensava, senza dirlo, che il male non stava nel mondo, ma in qualche luogo recondito del misterioso cuore di Petra Cotes, dove durante il diluvio qualcosa doveva essere successo che aveva reso sterili gli animali e scivoloso il denaro. Turbato da questo enigma, scavò così profondamente nei sentimenti della donna che, cercando l'interesse, trovò l'amore perché per fare in modo che lei gli volesse bene, finì per volerle bene. Petra Kotes, da parte sua, gli voleva sempre più bene a mano che sentiva aumentare il suo affetto, e fu così che nella pienezza dell'autunno tornò a credere nella superstizione giovanile che la povertà fosse una schiavitù dell'amore. Entrambi rievocarono allora come un fastidio le baldorie insensate, la ricchezza fastosa e la fornicazione sfrenata, e si rammaricavano pensando quanta vita gli era costata ritrovare il paradiso della solitudine a due. Pazzamente innamorati, in capo a tanti anni di complicità sterile, godevano del miracolo di volersi bene tanto a tavola quanto a letto, e giunsero a essere così felici che, quando erano ormai due vecchi sfiniti, continuavano ancora a ruzzare come coniglietti e a litigare come cani. Le riffe non resero mai di più. Sulle prime, Aureliano II passava tre giorni della settimana chiuso nel suo antico ufficio di allevatore di bestiame a disegnare i biglietti, pitturandovi con una certa diligenza una mucchina rossa, un porcellino verde o un gruppo di gallinette blu, a seconda dell'animale riffato, e tracciava, imitando abbastanza bene le lettere a stampa, il nome che a Petra Kotes era sembrato buono per battezzare l'impresa: Riffe della Divina Provvidenza. Col tempo si sentì così stanco dopo aver disegnato fino a 2000 biglietti alla settimana che mandò a riprodurre animali, intestazioni e numeri in timbri di gomma, e allora il lavoro si ridusse a inchiostrarli su cuscinetti di diverso colore. Nei suoi ultimi anni gli venne in mente di sostituire i numeri con indovinelli, in modo che il premio potesse ripartirsi tra tutti coloro che avessero azzeccato. Ma il sistema risultò in pratica così complicato e si prestava a tanti sospetti che desistettero al secondo tentativo. Aureliano II era così indaffarato nei suoi sforzi per consolidare il prestigio delle riffe che gli restava appena il tempo per vedere i bambini. Fernanda mise Amaranta Ursula in una scuoletta privata dove non si accettavano più di 6 alunne, ma si rifiutò di permettere che Aureliano frequentasse la scuola pubblica. Riteneva di aver ceduto abbastanza permettendo che uscisse dalla clausura, e poi nelle scuole di quell'epoca non si accettavano altro che figli legittimi di genitori cattolici, e nel certificato di nascita che avevano assicurato con una spilla da balia alla sottanina di Aureliano quando lo avevano mandato a casa era registrato come esposto, di modo che rimase rinchiuso alla mercé della sorveglianza caritatevole di Santa Sofia della Pietà e delle alternative mentali di Ursula, a scoprire il ristretto mondo della casa a seconda di come glielo spiegavano le nonne. Era sottile, allungato, dotato di una curiosità che faceva dar di volta il cervello agli adulti. Ma invece dello sguardo inquisitivo e a volte chiaroveggente che aveva avuto il colonnello alla sua età, il suo era palpebrante e un po' distratto. Mentre Amaranta Ursula era all'asilo, lui cacciava lombrichi e torturava insetti nel giardino. Ma una volta Fernanda lo sorprese a mettere degli scorpioni in una scatola per poi ficcarli nella stuoia di Ursula, e da quel giorno fu recluso nella vecchia stanza di Meme, dove trascorse le sue ore solitarie sfogliando le figure dell'enciclopedia. Lì lo trovò Ursula, un pomeriggio in cui andava aspergendo la casa con acqua decantata e un fascio di ortiche, e nonostante fosse stata con lui parecchie volte, gli chiese chi era. «Sono Aureliano Buendia», disse lui. «È vero», ribatté lei. «È già ora che cominci a imparare l'oreficeria».